e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Questa bella camicia così vivace con questo fioccone davanti è perché sai che oggi si torna a scuola di risparmio, un po' come sul banco di scuola. Sono a posto. Sei a postissimo. Allora oggi ti racconterò tutto quello che sta succedendo al Ministero del Tesoro in questi giorni, non tutto quello. C'è una cosa che interessa in particolar modo i nostri risparmiatori. Sai che è stato emesso questo BTP a 50 anni, lo chiamano anche il Matusalem Bond, perché è quasi perpetuo e quasi eterno, comunque 50. Molto longevo. Allora oggi cercheremo di capire anche su questo tema nella nostra scuola di risparmio se vale la pena investire a così lunghissima scadenza per un rendimento che è quello che è stato spuntato. Quindi attenzione, io vi dico già che potete intervenire all'800 24 00 24 per annotare i vostri interventi. Parleremo in realtà a 360 gradi dell'argomento rischio. Rischio, esatto. E rischio è una parola che declineremo anche nella parte dedicata alla salute. Parliamo di un rischio che spesso non viene percepito, ma che può costare molto caro per il cuore e per i denari. Parliamo infatti di gioco d'azzardo patologico, un fenomeno ampiamente sottostimato. Molte persone sviluppano una dipendenza, sono malate della febbre del gioco d'azzardo, ma non se ne accorgono, non ne hanno consapevolezza, sino a quando la situazione è talmente compromessa da aver mandato a monte i risparmi, quindi i denari, sì, e anche le relazioni familiari, lavorative, amicali, quindi il cuore, inteso proprio come vita, come relazione. Perché, e sono certa ve lo sarete chiesti anche voi in tante occasioni, ci sono persone che subiscono il fascino del gioco e altre invece che ne sono assolutamente indifferenti. Qual è il confine tra il gioco come divertimento, passatempo, occasione di socializzazione e il gioco come dipendenza patologica? Ne parliamo oggi insieme al dottor Vincenzo Marino, psichiatra, psicoterapeuta, che ha diretto per oltre 30 anni il Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Verona. È docente di psicologia applicata presso l'Università dell'Insubria e ha scritto La vita in gioco, il gioco d'azzardo tra divertimento e problema, edito da Franco Angeli. Buongiorno, dottor Marino. Buongiorno a voi. Allora, una premessa ed obbligo prima di addentrarci nel tema di oggi. Spesso si tende a considerare sinonimi il giocare d'azzardo e l'essere dipendenti dal gioco d'azzardo. Ma è davvero così? Può spiegarci meglio questa distinzione? Sì, diciamo che giocare d'azzardo e avere una dipendenza dal gioco d'azzardo sono in realtà due cose, due fenomeni molto diversi. Giocare d'azzardo è un fenomeno, un comportamento statisticamente normale. Sì. La maggior parte di noi ha giocato almeno una volta d'azzardo, un biglietto della lotteria, una schedina totocalcio, una tombola a Natale. E la maggioranza, diciamo, degli italiani nell'ultimo anno dichiara di aver giocato d'azzardo almeno una volta. Al contrario, la dipendenza da gioco d'azzardo è una grave patologia, fonte di enormi problemi sia per la persona che per la sua famiglia che per tutta la società, e che consiste, come per tutte le altre dipendenze, sostanzialmente nella perdita di controllo sul proprio gioco. Per cui quando una persona inizia a giocare non è più in grado di smettere, anche a fronte di gravi danni di natura economica, affettiva e così via. Un po' come accade anche per esempio con l'alcol, in cui sì, l'80% degli italiani un bicchiere di vino magari lo beve, però una minoranza sono le persone che quando iniziano a bere non riescono a interromperlo finché non ci siano proprio davvero delle conseguenze estreme. Quindi, dottor Marino, non tutti i giocatori sono uguali, ma possiamo fare una sorta di classificazione dei giocatori così da consentire a noi di verificare se siamo in una di queste categorie, magari se ci riconosciamo, riconosciamo un amico, un collega, il nostro compagno? Sì, diciamo che possono essere fatte vari tipi di classificazione. A seconda però del grado di coinvolgimento nel gioco d'azzardo, possiamo distinguere, diciamo, i giocatori sociali, che sono quelli che considerano il gioco come un'occasione di socializzazione, di divertimento, e che quindi sono in grado però di controllare il proprio comportamento. Per questo tipo di giocatori non servono, diciamo, degli interventi sociosanitari, degli interventi terapeutici, perché non hanno una patologia, Ma può essere utile magari fare degli interventi informativi, preventivi, per esempio sulle reali probabilità di vincita, sui rischi del gioco, eccetera. Poi ci sono i giocatori problematici che, anche se non hanno sviluppato una vera e propria dipendenza, presentano però un coinvolgimento importante verso il gioco che causa dei problemi e spesso, diciamo, viene considerata una fonte per evadere da altre difficoltà di carattere relazionale, personale. Per queste persone è utile in qualche modo anche forse un counseling che li aiuti a mettere a fuoco, diciamo, la funzione che il gioco sta svolgendo e a trovare delle soluzioni più adattive alle difficoltà, agli stress della vita. Infine abbiamo i giocatori patologici, che sono quelli che hanno effettivamente una vera e propria dipendenza e che necessitano di un trattamento. In realtà questa dei giocatori patologici è poi una galassia, perché all'interno ci esistono varie tipologie. Certo. Allora, giocatori sociali, giocatori problematici, giocatori patologici, 800 24 00 24, se volete intervenire, questo è il nostro numero verde, in una puntata in cui parliamo di rischio a 360 gradi dal punto di vista del cuore e dal punto di vista dei denari, anche nella seconda parte con la nostra scuola di risparmio. No, c'è un tema interessante, ti ringrazio per questo aggancio e promettiamo ai nostri ascoltatori che torneremo su questo argomento con questa declinazione anche un giorno, perché c'è chi si approccia al mondo del risparmio e degli investimenti proprio con lo stesso atteggiamento dell'approccio al gioco d'azzardo. Anche chi è completamente digiuno di nozioni finanziarie magari si avventura in investimenti in asset stravaganti, certo, solo con l'obiettivo di moltiplicare improvvisamente il suo denaro, il suo poco risparmio, per cui è davvero un parallelismo che potremmo fare presto. E c'è un'espressione, sì, che a te non piace, che si il giocare ancora in borsa. Giocare in borsa, esatto, non è un gioco. No, noi vogliamo assolutamente cancellare questo termine dal gergo quotidiano, oppure viene ancora largamente utilizzato. Abbiamo Carla da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Senta, Carla, benvenuta. Io mi occupo un po' da vicino, perché è un'associazione che si occupa anche di ludopatia, oltre che mediazione familiare. E quello che noto con piacere è che finalmente si fa luce su questo, su questa problematica, però ancora non si valuta un rischio, soprattutto un rischio tra gli adolescenti e sull'online. Per cui bisogna, a mio avviso, mirare soprattutto sulla prevenzione, sul analizzare qual è il rischio, certo, con interventi mirati magari nelle scuole, rivolto agli adolescenti e all'online. Carla, lei ha ragione, anche gli adolescenti giocano, sicuramente avrà visto i dati dell'ultimo rapporto del progetto ESPAD, che è un progetto, sì, di ricerca su alcol e altre droghe nelle scuole in Europa, che pone particolare, sì, attenzione proprio all'utilizzo problematico di internet, a quello che viene definito gaming, cioè i videogiochi, sì, online, al gioco d'azzardo, che tra l'altro proprio i giochi d'azzardo sono stati monitorati per la prima volta all'interno di questo progetto, segno che c'è una attenzione a questi, sì, comportamenti dei, sì, ragazzi. Che magari bisognerebbe procurare... completare sul territorio con la propria... Perché è cambiato lo scenario. Grazie Carla per questo spunto, perché ne vogliamo parlare naturalmente con il dottor Marino dopo le informazioni sul traffico, perché dottor Marino, in un tempo il giocatore d'azzardo era quello che giocava grandi fortune al tavolo verde. Dostoevskij descrive il prototipo del vero giocatore d'azzardo patologico, offrendo forse la prima dettagliata diagnosi letteraria e poetica di questo caso. Oggi però, nell'era multimediale, il gioco è diventato sempre più veloce, tecnologico e anche semplice, non occorre più uscire di casa e quindi è cambiato anche il profilo del giocatore d'azzardo. Il tipo di gioco e le modalità determinano e attivano probabilmente delle dinamiche differenti, e questo è importante considerarlo. Il dottor Marino ce ne parlerà tra poco, anche riferito ai nostri ragazzi. Se avete ragazzi e hanno in qualche modo il loro comportamento un po' vi preoccupa, vi fa nascere dei dubbi, ne avete parlato di questo con i vostri figli, volete farlo con noi? 800 24 00 24, tra poco. Cuore e denari. Torniamo a parlare di gioco, parliamo di un tipo di gioco, il gioco d'azzardo, e aggiungiamo patologico. La domanda è: perché ci sono persone che subiscono il fascino del gioco e altre che ne sono assolutamente indifferenti? Attraverso quali meccanismi il gioco ci ingabbia e si arriva ad una dipendenza? E poi il gioco online, il gioco sul web, quanto è diverso e a quali rischi espone? Pensiamo ai ragazzi, ma non sono naturalmente solo i ragazzi che giocano sul web, quanto è più facile e attraverso quali meccanismi si diventa dipendenti. Ne stiamo parlando con un grande esperto, il dottor Vincenzo Marino, che è in linea con noi. Dottor Marino. Inizierei con il rispondere alla seconda domanda. Diciamo che il gioco online è certamente in crescita esponenziale, soprattutto per quanto riguarda le scommesse sportive, e soprattutto da parte dei giovani, che giocano molto anche con gli smartphone e i tablet. E ha raggiunto nel 2014 il 4,2% del totale delle somme giocate, quindi ha raggiunto, ormai ha superato i 720 milioni di euro. Il gioco sul web è certamente più pericoloso di quello tradizionale, perché mancano le distrazioni dal mondo reale, cioè le altre persone, quegli stimoli che aiutano a mantenere il contatto con la realtà. Quindi il giocatore online si ritrova invece da solo con lo schermo, immerso nel gioco, che quindi finisce per esercitare un effetto, diciamo, quasi ipnotico. E quindi si tende più facilmente a perdere un po' la distinzione, diciamo, tra emozioni virtuali e soldi reali. I giovani poi, e gli adolescenti in particolare, sono particolarmente vulnerabili a questo aspetto. Questo perché diciamo che nell'adolescenza, a partire dalla pubertà, quello che si verifica è che avviene una produzione di ormoni sessuali, in particolare del testosterone, che attiva i sistemi agonistici. Cioè, mentre nell'infanzia la cosa più importante per un ragazzino è sentirsi accettato ed amato in famiglia e anche dal contesto, in adolescenza comincia a diventare importante affermarsi, vincere. Vincere nella competizione sportiva, vincere nella conquista della ragazza a scuola, e chi in qualche modo, tra virgolette, vince, cioè ha successo, libera nel proprio sistema della gratificazione cerebrale della dopamina, sperimenta delle sensazioni di benessere, di euforia, di autostima. Chi perde, invece, in qualche modo ha un calo di dopamina e quindi sperimenta dei sentimenti di inadeguatezza, dei sentimenti depressivi. Il gioco d'azzardo, come altre dipendenze, proprio perché alza questi neurotrasmettitori, permette, diciamo così, di fare da surrogato, di compensare questi sentimenti di inadeguatezza, alzare un po' il livello di dopamina e ripristinare un livello di benessere che però è assolutamente aleatorio e temporaneo, e quindi bisogna continuare a ripeterlo. Abbiamo in linea con noi Cosimo, ci chiama da Arezzo all'800240024. Vorremmo proprio in questa puntata anche dare qualche strumento di informazione, capire se si può fare prevenzione, dare dei consigli alle persone che vivono accanto ad un giocatore che si sta facendo o è già invischiato nel gioco. Che cosa fare, come parlare, perché si attivano dei meccanismi in cui il giocatore nasconde, forse i familiari non sanno come intervenire, si sentono anche in colpa perché si pensa: ma come, non sono riuscito a evitare che arrivasse a questo punto. Nello stesso tempo la situazione è molto delicata, con una puntata naturalmente non riusciremo a risolvere, ma vogliamo metterci a vostra disposizione, e quindi abbiamo in linea con noi Cosimo che ci propone il suo caso. Cosimo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie. Grazie a lei. Ci racconti? Racconto che sono un giocatore da una ventina d'anni o 40 anni, conosciuto il gioco da quando esisteva il Totocalcio, io giocavo il Totocalcio. Poi negli anni, come ha detto anche il dottore, si è modernizzato tutto, io mi sono modernizzato un po' con tutto. Anche lei. Ecco, però come ho detto, ora siamo arrivati a un punto che sono 4-5 anni che non ho più, non vinco, non ho bisogno di vincere, ho solo bisogno di giocare. L'importante è avere una schedina, una giocata, l'importante è aver giocato e mi realizza. Se non riesco a giocare nell'arco di 2 o 3 giorni, cambio un po' caratterialmente, lo sente anche mia moglie in famiglia che mi cambia qualcosa. Ho provato anche ad andare in qualche struttura a farmi aiutare, ma ho ritenuto, ahimè, inutile l'aiuto e non ci sono più ritornato. Allora Cosimo, lei, la sua testimonianza, come si dice, fa puntata, perché lei nel suo intervento ha descritto, dottor Marino, perfettamente la situazione in cui si trovano tante persone e da cui è molto difficile uscire, c'è anche una sorta di sfiducia, ho provato, non funziona nulla, e quindi c'è questo bisogno proprio di giocare per sentirsi anche realizzato, c'è questo desiderio, questo comportamento che non può essere controllato. Intanto ringraziamo Cosimo. Dottor Marino. Sì, Cosimo ha descritto molto bene quelle che sono un po' le fasi di sviluppo della malattia del gioco. Diciamo che inizialmente si gioca per rincorrere una sensazione gratificante di benessere. Il nostro sistema nervoso però tende ad adattarsi ai cambiamenti e a neutralizzarli mediante degli adattamenti. Quindi via via che si va avanti la gratificazione non c'è più, ma si gioca per sfuggire al malessere. Quindi diciamo che il meccanismo che perpetua il gioco sono da una parte dei meccanismi di condizionamento pavloviano, cioè quelli descritti dal neurologo russo, sì, alla fine dell'Ottocento, Pavlov, il quale aveva verificato... Dottor Marino, riparliamo subito dopo il GR, intanto anche con delle indicazioni del nostro esperto. Che fare? GR di nuovo insieme. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Le carte sono date, tu hai in mano quel che hai. Mi invoglia di bleffare, ma non la berranno mai, per cui io... Siamo tornati insieme, come anticipato, nel nostro GR, in questa prima parte del programma parliamo di gioco d'azzardo patologico. In linea con noi il dottor Vincenzo Marino, psichiatra, psicoterapeuta, ha diretto per oltre 30 anni il Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL di Varese ed è docente di psicologia applicata presso l'Università dell'Insubria. Dottor Marino, dovrei chiamarla Prof. Marino, ma ormai l'ho chiamata Dot. Va bene, Dot va bene, Prof. Dottore. Allora, tra l'altro autore di un libro molto interessante che voglio segnalare. Si intitola La vita in gioco, il gioco d'azzardo tra divertimento e problema, edito da Franco Angeli. Dottor Marino, il nostro ascoltatore ci ha raccontato la sua storia. Il gioco è entrato nella sua vita e non può fare a meno di giocare. La famiglia si mette un po' da parte, assiste forse un po' impotente a questa situazione. Operativamente, il nostro ascoltatore ci ha detto che si è rivolto anche ad un centro per le dipendenze, perché sono questi i centri a cui si fa riferimento. Non c'è un centro specifico, parlo di centri pubblici per il gioco d'azzardo, ma è rimasto non soddisfatto e quindi continua a versare il suo obolo per continuare a stare bene. Che cosa si può fare in questi casi? Lo so che ogni caso a sé va diagnosticato, analizzato, anche il contesto in cui il giocatore d'azzardo vive, ma dottor Marino, vogliamo stressare la parola prevenzione e soprattutto arrivare presto, prima che sia troppo tardi. Sì, io intanto direi a Cosimo di non scoraggiarsi e di insistere nel cercare aiuto. Questo perché smettere da solo, con la sola volontà, è molto difficile. Se una persona, diciamo, fosse in grado di smettere con la volontà, non avrebbe una dipendenza. Occorre un aiuto esterno, e fra le terapie più efficaci rientrano certamente i trattamenti di gruppo, anche quelli di autoaiuto, per esempio offerti da gruppi come i giocatori anonimi. Questo perché il gruppo consente di sostituire la gratificazione del gioco con quella derivante dal supporto sociale offerto dal gruppo, ma anche di imparare ad individuare correttamente gli obiettivi e le strategie per smettere. Per esempio, molte persone puntano, per non rinunciare del tutto al gioco, a un gioco moderato. Questo per una persona che ha una dipendenza è assolutamente impossibile. E poi estremamente importante il ruolo della famiglia, che non solo è un soggetto sofferente e quindi va supportata, ma è anche una fondamentale risorsa per aiutare il giocatore. Difficile farlo, perché il giocatore cerca naturalmente e generalmente di nascondere il problema per diverse ragioni. Certo, diciamo che il giocatore mente o nega il problema perché non vuole rinunciare del tutto alla gratificazione immediata prodotta dal gioco, che è spesso l'unico amico che gli è rimasto, nel senso che il gioco gli sfascia la vita, ma più tutto il resto va male, più l'unico momento in cui il giocatore ha l'impressione di stare meglio è quando sta giocando. La seconda cosa è che non vuole essere considerato un debole o un vizioso, e a livello sociale, purtroppo, anziché una malattia, Questa condizione viene considerata un vizio, quindi espressione di debolezza morale o di debolezza della volontà. Professor Marino, abbiamo, vede che adesso mi ricordo, professor Marino, abbiamo aperto sugli adolescenti e sul gioco online. Vorrei anche un commento su sempre più anziani si giocano. Giocano probabilmente illusi dall'idea di guadagnare delle somme di denaro che possono garantire a loro di arrivare a fine mese, magari anziani che hanno una pensione molto ridotta, ma poi sono invischiati. Ci sono anziani che sono veramente intrappolati nel gioco delle macchinette, sul grattevinci. Anche in questo caso i figli di questi anziani forse fanno fatica a intercettare il problema, ma ancora una volta la famiglia poi come può intervenire? Andiamo anche a Marco da Verona. Marco. Sì, buongiorno. No, io volevo portare semplicemente la mia testimonianza, esperienza di 40 anni in cui mi occupo di investigazioni private qui a Verona, ma in genere in Veneto, e purtroppo nell'arco degli ultimi 10 anni la maggior parte della clientela che si rivolge a me, nel caso in cui ci siano dei dubbi o dei sospetti di comportamenti non regolari, quindi i campanelli d'allarme di solito possono essere il conto corrente che sistematicamente scende, presenta delle irregolarità, eccetera, delle prelievi, eccetera, oppure inappetenza, svogliatezza in famiglia, disinteresse, apatia, qualche volta ci sono frequenti ritardi ad appuntamenti sistematici sia sul lavoro che per questioni private. Spesso e volentieri non sono solo le famiglie, ma sono anche, per esempio, soci di aziende avviate che rilevano un problema di scarsa presenza sul posto di lavoro del socio. Tutto un quadro che presenta tanti segnali di allarme, e si arriva poi a capire che la persona in questione è rimasto imbiscato nel gioco. Dottor Marino, le ultime battute di questa nostra trasmissione, a cui sicuramente ne seguiranno altre, Deborah ce l'ha già promesso. Assolutamente perché sì, il perché tema... qualche volta l'investimento, si guarda l'investimento con la stessa filosofia con cui si guarda al gioco d'azzardo, insomma, con lo stesso obiettivo, guadagnare tutto e subito. Dottor Marino, due considerazioni prima di parlare poi anche di un progetto molto interessante di cui vi racconteremo tra breve. Dottor Marino, professor sì, Marino. La problematica degli anziani è una problematica cruciale quanto quella dei giovani. Gli anziani soffrono di solitudine. Spesso, come dire, unito questa insoddisfazione esistenziale legata a una serie di fattori, l'invecchiamento, il decadimento sì. corporeo, la perdita dell'attività lavorativa e del ruolo, eccetera, si somma la offerta capillare, diciamo, in vari locali pubblici di giochi a portata di mano che finiscono per diventare, diciamo, qualcosa di consolatorio. Non è un caso che anche altre dipendenze, come quella dell'alcol, diciamo, hanno un picco di problematicità nel nostro paese, nei giovani e negli anziani, per ragioni molto, molto diverse. Dei giovani abbiamo parlato prima. Quindi sicuramente il supporto sociale, l'inclusione in qualche modo degli anziani, che possono svolgere ancora moltissime funzioni utili, e un'attività preventiva. Rispondo con un flash per quanto riguarda gli altri aspetti di carattere preventivo. Diciamo che la diffusione della problematica della dipendenza da gioco dipende dalla diffusione capillare dei giochi, infatti è aumentata esponenzialmente a partire dagli anni 90, dal 60 al 90 gli italiani hanno giocato 5 miliardi di euro, dal 90 al 2012 sono aumentate di 17 volte, sono diventati 87, in concomitanza con le autorizzazioni alla diffusione capillare dei giochi. L'altra componente è il tipo di gioco. I giochi ad esito immediato, come le slot, i gratta e vinci, le VLT, creano dipendenza, sviluppano condizionamento e quindi andrebbero limitati. L'ultima variabile sono le condizioni dell'individuo. Più una persona è realizzata nella vita, si sente utile, si sente sostenuta, meno avrà bisogno di compensi e surrogati come il gioco, l'alcol o altro, o i farmaci stessi. Professor Marino, voglio presentarle Francesco, titolare di un'edicola di Benevento. Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Un bel progetto, titolare di un'edicola storica proprio nel cuore di Benevento, un'edicola che ha detto no a gratta e vinci e slot, aderendo a una campagna no slot della Caritas. Sì, quindi, della Caritas di Benevento, mi scusi. E quindi Francesco, avete detto piuttosto no, non ci interessano questi soldi. Esatto. Vogliamo... Francesco, il sì, esatto. No, è semplicemente sì. La Caritas di Benevento sta portando avanti questa campagna contro le slot machine e la vendita di gratta e vinci negli esercizi commerciali, a cui io ed altri colleghi di Benevento abbiamo aderito e sono felice di questa scelta, semplicemente perché mi sembra brutto anche prendere questi soldi da persone che hanno alcuni problemi, cioè come quello del gioco. E certo, dove si perdono tanti soldi. Quindi sì. Francesco e altri suoi colleghi hanno detto qui no. Grazie Francesco. Grazie. Complimenti. Grazie a voi. Da un'edicola di Benevento, un segnale che ci piace, un segnale alla Cuore Denari. Questo. Assolutamente sì, se la paragoniamo a quella immagine invece, adesso non me ne vogliano ovviamente, di tanti esercizi pubblici dove invece vedi questi avventori seduti ad un sacco di macchinette, molto spesso sono sempre molto colpita da questa immagine di una persona che gioca con accanto magari la sua compagna che lo guarda, lo assiste, lo supporta pure in questo meccanismo. Mi ha sempre un po' colpito questa immagine, Nicoletta, non so che ne pensi. È vero, e torneremo a trattare questo tema. Grazie al professor Marino per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Se volete scriverci, cuoredenari@radio24.it. continuiamo a parlare di rischi. Esattamente. Allora, intanto lo stesso indirizzo lo potete utilizzare ovviamente anche per scriverci, come hanno fatto un paio di ascoltatori già questa mattina, che su nostro invito ci hanno mandato, come dire, assegnandoci anche una forte responsabilità, un paio di portafogli investiti. Un paio di ascoltatori ci hanno chiesto: secondo voi abbiamo fatto delle scelte corrette? Non possiamo dare in diretta una risposta a questi due amici, perché essendo molto dettagliata la mail abbiamo bisogno di controllarla con un po' più appunto di così professionalità, se volete. Quindi la gireremo ai consulenti dei quali ci avvaliamo proprio per fare degli esami di questo tipo. Detto questo, il tema di oggi: quanto ne sanno gli italiani di finanza? Quante volte iniziamo questo spazio del giovedì con questa domanda? Nicoletta lo sa bene, in misura non adeguata. Questo li porta spesso a prendere delle decisioni finanziarie sbagliate, ma anche c'è un altro problema: il fatto di avere una scarsa cognizione delle questioni finanziarie appunto fa sì che tutte le questioni che sono alla base di ogni scelta finanziaria appunto vengano comprese con difficoltà. Proprio ieri abbiamo ribadito i risultati della nuova indagine Consob sulle competenze finanziarie degli italiani, che sono largamente insoddisfacenti. E queste sono, come sapete, le ragioni per cui da mesi con alcuni dei principali attori dell'industria del risparmio proviamo a guidare i nostri ascoltatori nelle dinamiche della finanza e nel mondo delle questioni finanziarie, che risultano essere sempre più complicate per noi tutti. Nella puntata di oggi, in collaborazione con la Global Thinking Foundation, affronteremo il tema del rischio, come lo percepiscono i risparmiatori. Investire informati. Del rischio c'è una concezione molto ampia. Le famiglie italiane da una parte non amano per esempio particolarmente sottoscrivere forme assicurative a protezione personale o del nucleo familiare. È un dibattito ampio e acceso da tempo. Al contempo, quando si tratta di investire il proprio denaro, dicono di volere la certezza e la sicurezza della restituzione almeno del capitale, salvo poi scoprire a volte di aver scelto delle soluzioni di investimento con un grado di rischio invece alto o comunque non adeguato rispetto ai propri bisogni. Fino anche a chi, lo dicevamo prima, vuole approcciarsi ai mercati cercando i rendimenti ma senza capire fino a che punto si rischia. Così ci si innamora delle obbligazioni dei mercati emergenti, delle valute, di strategie di investimento troppo complesse. Allora oggi faremo un ragionamento a 360 gradi proprio sul tema rischio, con anche il vostro coinvolgimento, con due ospiti. Grazie per esserci venuto a trovare qui negli studi di Milano. Luciano Turba, segretario generale della Global Thinking Foundation, buongiorno. Buongiorno. E anche capo del desk obbligazionario di UbiBanca, quindi per dare con completamente... Non l'ho detta all'inglese, le piace? Vuole tradurre lei, perché piace essere sempre comprensibile con i nostri... sono responsabile del desk Forex e derivati. Ecco, quindi l'ambito obbligazionario. Ho fatto anche emissioni obbligazionarie. Perché io oggi su questo voglio interrogarla, voglio sapere tutto del BTP a 50 anni, che cosa si dice e se è anche una soluzione adatta per un piccolo risparmiatore. Grazie di essere con noi anche al professor Marco Agugliari, già professore a contratto per l'Università di Pisa, che non abbiamo ancora, fra un po' ci collegheremo telefonicamente con lui. Professore a contratto in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile, con lui faremo proprio il focus sul tema assicurativo. E poi 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Allora, dottor Turba, se guardiamo ai mercati dobbiamo fare un milione di ragionamenti su quali rischi si nascondano dietro ogni tipologia di investimento, e oggi proveremo a valutare quelli più evidenti in questa speciale e particolare fase di mercato, anche per provare a far capire ai risparmiatori cosa significhi diversificazione dei rischi. Noi raccomandiamo sempre, Nicoletta lo sa perché stresso anche lei su questo concetto, quanto sia importante non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Ma esattamente il concetto della diversificazione del rischio visto da un professionista qual è? Beh, diciamo che diversificare il rischio vuol dire innanzitutto essere consci di quello che si sta facendo, anche in termini, diciamo, di disponibilità che uno ha, diciamo, nelle sue disponibilità finanziarie. Voglio dire, se uno va a investire tutte le proprie disponibilità finanziarie senza tenersi un cuscinetto su un asset che poi si rivela sbagliato, chiaramente va incontro a brutte sorprese, che poi tante volte sono state brutte sorprese che sono avvenute per situazioni di truffa, però i casi clamorosi, naturalmente. Mi ricordo il caso per fare un caso clamoroso, i bond russi piuttosto che Parmalat, piuttosto che i bond argentini, è chiaro che se uno butta tutta la liquidazione, purtroppo, in un asset solo e poi succede qualche cosa su questo asset, rischia di perdere tutto, certo. O i subordinati delle ultime banche delle risolte. Il tema è che oggi non esiste più uno strumento di investimento completamente privo di rischio, e questo forse è il concetto più difficile da far passare nella testa delle persone. Anche il conto corrente è rischioso alla luce delle nuove regole del bail-in. C'è sufficiente cultura finanziaria su questo tema, dottor Turba? Se stiamo all'indagine della Consob devo risponderle di no. È chiaro che è anche una questione generazionale, c'è sicuramente molta più cultura finanziaria, diciamo, nelle nuove generazioni, quindi nelle generazioni dei giovani e nelle generazioni di mezzo, ce n'è di meno chiaramente nelle generazioni con un po' più di primavere sulle spalle, perché erano abituati a un generale, altro scenario, cioè i famosi bot people e via dicendo. Quindi chiaramente è una situazione che deve migliorare, c'è bisogno di education finanziaria, di cultura finanziaria, perché più si conosce, più diciamo che tendenzialmente si fanno investimenti meno rischiosi. Poi il rischio assoluto zero, purtroppo... Il free risk è morto, lo diciamo spesso. No, diciamo che non è morto, ma è molto malato. È molto malato. Dopo il 2008 ha preso qualche malattia seria, insomma, dalla quale sta provando a curarsi. Allora, 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione. Vorrei che faceste un ragionamento con la vostra testa su questo tema. Così cercate di fare una fotografia mentale della modalità con cui avete investito e state risparmiando. Secondo voi, qual è il grado di rischio? Qual è la componente rischio del vostro portafoglio? Siete in grado di definirla, identificarla? Magari appunto raccontatecelo, oppure non vi siete in assoluto mai fatti questa domanda e non l'avete mai rivolta neanche al consulente che vi accompagna nella vostra strada appunto verso una pianificazione finanziaria corretta per voi e per la vostra famiglia. Quindi ci piacerebbe appunto fare un ragionamento con voi su questo tema. E se volete, se ci sono anche dei consulenti finanziari, promotori all'ascolto, che vogliono invece raccontarci come provano a far capire questo concetto ai loro clienti, beh, noi siamo ben contenti di condividere anche queste esperienze. Professore Agugliari l'abbiamo con noi, buongiorno. Sì, buongiorno, piacere. Eccoci qua, buongiorno. Noi l'abbiamo già presentata poco fa, il nostro esperto del settore assicurativo, perché anche su questo argomento abbiamo molte declinazioni da proporre ai nostri ascoltatori. Rischio e italiani, insomma, hanno un concetto tutto loro, gli italiani, della protezione. Sappiamo bene che le famiglie italiane sono largamente sottoassicurate, questo per tutta una serie di motivazioni, perché spesso non si fidano delle assicurazioni stesse, perché l'RC auto cannibalizza tutto il resto, il budget delle famiglie è quello che è. Professor Agugliari, un po' di scaramanzia dell'italiano c'è anche, tanto non mi succede nulla, se mi succede pazienza, affronterò in qualche modo, ci penserò. No, lei come la vede dal punto di vista accademico? Ma dal punto di vista accademico, ma anche da persona che tutti i giorni ha davanti a sé fascicoli aperti su incidenti, su eventi che comunque possono colpire la persona, il cittadino comune, il cittadino che magari appunto non valuta in maniera adeguata o opportuna quello che può essere il proprio rischio, il rischio che può colpire sia la sua persona o il suo patrimonio, e quindi l'integrità fisica, non so, la classica abitazione, sia anche il rischio dal semplice insomma gestire la propria vita, quindi in un rapporto relazionale con terzi, i danni che potenzialmente possono essere recati a terzi in una maniera più disparata, più comune, forse più banale talvolta, ma poco considerata. E questo è un aspetto che appunto l'italiano medio talvolta insomma affida specie in certe regioni al corno rosso, no? Alla scaramanzia. Tanto a me non succede, ma al momento che succede, una volta che colpisce, come dicevo prima, magari la mia persona, posso dire pazienza, me la sono voluta, sopporto il peso anche economico e le conseguenze anche economiche che può determinare quell'evento, e posso dire, non so, il professionista che magari a seguito di un infortunio, quindi una causa esterna, violenta, improvvisa, e colpisce la sua integrità fisica, perde la possibilità di digitare il computer, ovviamente avrà un documento economico nella sua anche attività professionale. Ma quando magari, non so, posso pensare all'ascoltatore, una signora che magari ospita madre di famiglia, spesso bambini a casa propria, amici del figlio, e il figlio ne combina minore, qualcuna, piccolo, ecco, dà una spinta a qualcuno e questo provoca un danno forte, magari importante. Certo che poi i genitori del bambino si rivaranno sulla signora in maniera legittima. Certo, il quadro è piuttosto chiaro, professor Aguiari. Allora, detto tutto questo, adesso dobbiamo andare in pausa perché ho la borsa. Che cosa le piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori su questo argomento? Ma sarebbe interessante sapere se conoscono le polizze che hanno nel cassetto, che cosa c'è nel cassetto, che cosa... Da che cosa si sentono protetti e quindi che cosa il proprio assicuratore, secondo loro, ha garantito essere esente dal rischio? Si parla tanto di rischi. Benissimo. Esente dal rischio, in qualche grazie modo. Allora, adesso facciamo riflettere i nostri ascoltatori. Anche io, Nicoletta, virtualmente, idealmente, apriamo i nostri cassetti, andiamo a caccia delle nostre polizze, invitiamo anche gli ascoltatori a farlo. Poi ce lo racconterete all'800 24 00 24. Noi torniamo tra un minuto, giusto il tempo di raccontarvi cosa succede stamattina sui mercati finanziari. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Investire informati. Ad investire informati oggi il tema rischio a 360 gradi. Sarebbe necessario avere la disponibilità di un intero palinsesto per argomentare bene su questo tema. Noi oggi lo facciamo dal punto di vista di chi investe sui mercati finanziari e anche dal punto di vista delle famiglie e l'approccio che hanno con le assicurazioni. Allora, come percepiscono il rischio le nostre famiglie, i nostri ascoltatori, i nostri risparmiatori? Ce lo state raccontando all'800 24 00 24. Allora, con noi Luciano Turba, la responsabilità per UbiBanca del desk valute e derivati. E che non volevo dire la parola derivati, che qualche volta, lei lo sa Turba, è un po' percepita come una parolaccia, no, in finanza. Ma diciamo che le banche italiane hanno fatto passare bene questo vendono messaggio. Vendono dei derivati, diciamo, buoni di copertura, ecco. E le grosse crisi finanziarie sui derivati non sono certo avvenute nel nostro mondo, ma nel mondo anglosassone. Quindi quando siamo meglio degli altri, un sassolino dalla scala. Quando siamo meglio degli altri, è anche giusto dirlo, che lo diciamo. Certo. Senta, dottor Turba, allora, il Tesoro italiano ha collocato questo BTP a 50 anni. Aveva messo sul mercato 3 miliardi, il mercato internazionale ne ha chiesti 18, e quindi Maria Cannata che cosa ha detto? Vabbè, fino a 5 posso arrivare. È stata un'operazione di grandissimo successo, sono soprattutto corsi gli investitori esteri a sottoscrivere questo titolo, ma le chiedo, dal punto di vista dell'investitore privato che ancora non ha potuto sottoscriverlo, perché potrà farlo nei prossimi giorni quando il titolo andrà sul mercato secondario, quindi sul MOT, potrà acquistarlo appunto attraverso piattaforme di negoziazione, attraverso la propria banca. Secondo lei che rischi corre un investitore che vuole investire in un titolo di questo tipo? Ma, un diciamo, piccolo risparmiatore. Vabbè, diciamo che chiaramente deve fare delle valutazioni. Il rendimento attuale è buono, molto buono. Siamo un po' al di sotto del 2,9%. Sì, deve fare delle valutazioni future. E soprattutto deve sapere che un titolo di questo tipo, non perché è il BTP Italia, ma qualsiasi titolo, diciamo, dai 10 anni in su, è molto price sensitive, quindi al movimento, ad esempio, dello spread, chiaramente il prezzo del titolo si muove parecchio, quindi ci potremmo trovare a prezzi molto distanti dal prezzo d'emissione, a rendimenti anche superiori a quello d'emissione, andando a comprarselo poi sul mercato secondario. E poi deve tenere presente anche la sua, diciamo, duration di investimento, perché non so, Posso immaginare che una persona con vicina ai 60 anni, insomma, prendersi un BTP a 50 anni così, diciamo, volatile, suscettibile, ecco. Invece, ad esempio, una persona di più giovane età potrebbe considerarlo come una sorta di investimento pensionistico. Esatto. Non stupisce. Tra l'altro l'analisi che fa anche il Sole 24 Ore questa mattina nel pezzo di Vito Lobs, che dice: un'assicurazione, anche per legarci ai temi del professor Aguiari, per figli e nipoti, ma attenzione alle oscillazioni di prezzo. Sì, non stupisce che l'83% sia stato sottoscritto dall'estero e molto meno dall'Italia, perché i fondi pensione italiani hanno un orizzonte investimento più basso, anche perché il sistema pensionistico italiano è ancora estremamente diverso da quelli di altri paesi. Mentre i fondi pensione, le assicurazioni di paesi come la Francia, la Germania e via dicendo hanno un orizzonte investimento molto più lungo, quindi questa allocation dell'emissione non stupisce. Però insomma fate attenzione anche qua, diversificando bene il vostro portafoglio potrebbe anche essere una buona occasione, ma attenzione. Peraltro li chiamano questi bond che hanno una durata così, così lunga, peraltro l'Irlanda si è avventurata anche nel terreno del titolo a 100 anni, li chiamano bond perpetui, in realtà quelli perpetui non hanno neanche una scadenza, non sono stati ancora gli stati ad emetterne, ma molte istituzioni finanziarie. Ma è vero che non garantiscono il capitale a scadenza, dottor Turba? Beh, dipende dalle varie emissioni, cioè, certo, però insomma l'importante è che lo si sappia dall'inizio. Sì, sì, no, certo. Uno per fare un'emissione, allora, in generale, uno per fare un investimento dovrebbe andare a leggersi molto bene il prospetto. Ecco, detto questo, visto che hanno in genere 200-300 pagine, lo so, è difficile da leggere, però è una cosa che andrebbe fatta. Perché bisogna conoscere bene come stanno le cose prima di buttarci dentro soldi. Questo quando parliamo di investimenti a lungo termine. È chiaro che se uno vuole fare un investimento in borsa comprandosi delle azioni di una società, va a vedere i bilanci, va a vedere quali sono le voci di mercato su questa società più a breve, e magari non sta ad andare a leggersi tutta un'altra serie di cose. Però su un investimento a lungo è meglio che venga fatto, certo, questo. Soprattutto se lo si fa in un'ottica di conservare il capitale, che oggi è il grande bisogno degli italiani. Allora, professor Aguiari, ho la domanda per lei, anzi una considerazione per lei da parte di Antonio da Salerno, visto che ha chiesto agli ascoltatori: andate un po' a controllare nei vostri cassetti come, in che modo vi siete assicurati, avete una cognizione di causa della polizza sottoscritta, cosa c'è nel vostro cassetto. Antonio, cosa c'è nel suo? Sì, salve, buongiorno. Allora, io mi sono sintonizzato da poco, visto che l'argomento mi piace molto, perché io credo che nella vita, soprattutto con l'avanzare dell'età, c'è bisogno di un po' di coperture, non solo quella assicurativa, ma anche pensionistica, eventualmente qualche causa morte che non è sbagliata. Io nello specifico, chiaramente, avendo 47 anni con moglie e figlio a carico, mi sono un po' preoccupato. Dopo alcuni preventivi in diverse assicurazioni, sono andato incontro, ho conosciuto una mutua. Sì. E quello che diciamo così, nello specifico quello che ho, al di là degli eventi improvvisi che possono coprire, come le grandi malattie, come i grandi interventi, eccetera, eccetera, ma sono stato favorevolmente colpito dalla prevenzione, a partire dai test che mi mandano a casa, ma anche i vari check-up oncologici e cardiovascolari almeno una volta all'anno. E poi le coperture classiche come il rimborso di ticket, di alta diagnostica, di grandi interventi, quindi ho coperto tutta la mia famiglia con un prezzo accessibile all'anno. Certo. Questo è il, diciamo così. Questo è stato l'investimento che lei ha deciso per la sua famiglia, Antonio. Magari ne avrà fatti anche altri, ma questo per lei è stato il più importante. Aguiari, c'è una bella situazione nel cassetto di Antonio. Ma sicuramente sì. Una situazione consapevole, di grande consapevolezza. Una persona consapevole, sì, che ha valutato molto attentamente il rischio, che sicuramente andrà ad integrare in questo caso, perché l'ascoltatore insomma valuta in questo caso una polizza malattia, ha sotto mano una polizza malattia che integra quello che già viene in qualche modo offerto dallo Stato, quindi forse non considerando idonea o sufficiente una tutela diciamo assistenziale pubblicistica, è andato ad investire realmente, perché per quanto immagino poco, ma insomma una polizza di questo tipo è impegnativa dal punto di vista economico e familiare. Consiglio all'ascoltatore di leggere attentamente tutte le condizioni generali di contratto, perché un conto è quello che viene spiegato, promesso magari verbalmente, quello che poi viene appunto trovato sul contratto, perché talvolta proprio il prezzo accattivante nasconde delle insidie. Io spesso ai miei studenti invito a verificare il contratto, a interpretarlo il contratto, perché così talvolta deve essere. Purtroppo certe clausole sono veramente di difficile lessico e inducono il consumatore medio a errori madornali. Quindi consiglio all'ascoltatore di valutare insieme al suo consulente tutte le sue esigenze di copertura. Lui vuole coperto che cosa? Il ricovero, bene, che guardi insieme a lui qual è l'articolo specifico che gli consente questa sua copertura del rischio specifico, e non una semplice dizione di titolo, appunto del capoverso, il titolo, che garantisce genericamente tutti i ricoveri. Benissimo, se grazie. Poi ne esclude altri. Esatto. È bello che si sappia, poi uno fa le sue scelte, dice voglio pagare un premio più basso, però sappia che quella polizza ha delle esclusioni, naturalmente le famose clausole, delle quali poi simpaticamente veniamo a conoscenza solo quando abbiamo il danno e chiediamo l'indennizzo e il risarcimento. C'è il traffico, tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati di nuovo in diretta. Oggi parliamo di rischi, i rischi dei mercati finanziari oggi sono davvero tanti in uno scenario che è molto cambiato rispetto solo a pochi anni fa. E poi il settore assicurativo, da quali rischi siamo protetti, siamo sicuri di avere delle coperture adeguate? Qualche volta non ne abbiamo solo perché non ci fidiamo tanto delle assicurazioni, anche per tutte le ragioni che abbiamo commentato prima della nostra pausa. Allora Luciano Turba, quali sono in questo momento i rischi prevalenti dei mercati finanziari? C'è grande volatilità in borsa, ci sono le banche centrali molto attive e dall'altra parte dell'oceano presto la Banca Centrale Americana inizierà ad aumentare i tassi di interesse. Insomma, quali sono in questo momento, da qui magari al breve termine, così per dare un po' di visibilità anche ai nostri ascoltatori, i rischi sui quali voi puntate i riflettori come operatori specializzati dei mercati? Ma guardi, io per lavoro devo puntare il riflettore sui rischi appunto derivanti dal rischio di cambio, dai tassi e via dicendo, perché chiaramente il sistema economico produce, ma poi deve anche lui stesso coprirsi dai rischi, perché supponiamo un'azienda che lavora al 90% per l'esportazione e riceve pagamenti in valuta, deve tenere presente ad esempio di andare a coprirsi dal rischio di cambio e farlo nella maniera migliore. Oppure anche questi sono per esempio i cosiddetti derivati buoni che una banca può produrre, far sottoscrivere ad un'azienda un prodotto di questo tipo per tutelarla da quella condizione che si va dalla normalissima chiusura di un cambio a termine, esatto, che non è un derivato. È un'assicurazione anche quella, Quella è un si va a pagare un differenziale di tassi tra due valute. Tutto il resto del mondo derivati ha il concetto dell'assicurazione, quindi io pago invece che ricevere, perché ad esempio nei contratti a termine ricevo sulla quasi totalità delle valute. Pago, però ho la possibilità di essere coperto, cioè ad esempio le famose opzioni plan vanilla, che è proprio il primo derivato che è nato, ha il concetto dell'assicurazione, cioè io pago un premio per poi decidere se comprerò a quel prezzo lì, se sfrutterò le oscillazioni di mercato a mio favore e non comprerò più a quel prezzo lì, ma andrò a prendermi quello che ha proprio il concetto dell'assicurazione. Ad esempio bisogna valutare i rischi anche nell'investimento del piccolo risparmiatore che cerca rendimento. Se cerca rendimento, ad esempio, molti risparmiatori investono sulle obbligazioni in valuta. Obbligazioni in valuta emesse da emittenti magari di primaria importanza, super tripla, ad esempio la BEI Banca è una Mondiale delle prime. No, è stato l'ultimo che abbiamo raccontato, cioè questa emissione recente della Banca Mondiale, non le dico, in quanti si sono lamentati del fatto che non ho fatto un adeguato focus sui rischi di quell'obbligazione, che l'ho decantata un po' troppo nei vantaggi e nei meriti. Io prendo ad esempio, perché mi è capitata sotto gli occhi un po' di giorni fa, un'emissione in lire turche della BEI che rende cedolare da prospetto il 9,25%, però. Allora, conosciamo il rischio politico di quell'area. Esatto, e poi c'è da valutare il rischio di cambio. Perché se qualcuno l'avesse sottoscritta a 2,80 di euro Turchia, adesso la Turchia a 3,20, potrebbe avere una perdita sul cambio tale da andare ad azzerargli quel rendimento cedolare. E invece, che è molto qualche elevato. Volta il rischio del cambio non lo si tiene nella dovuta considerazione, si guarda solo all'ammontare complessivo del cedolone riconosciuto dall'obbligazione. Diciamo che nel mondo professional lo sapete bene, per fortuna, certo. E nel retail, anche nel mondo delle aziende, anche nel retail, perché si sta abbastanza evolvendo il retail. Quello che bisogna fare in Italia, ed è quello che sta facendo la Global Thinking Foundation, esatto, la vostra associazione, è cercare di far salire quella percentuale che la indagine Consob ha mostrato di conoscenza della finanza da parte degli italiani, e lo si può fare ad esempio facendo conoscere bene i termini finanziari, cosa vogliono dire determinate cose. E noi stiamo appunto collaborando con il senatore Bernardo, che sì, in Parlamento, è venuto già da noi un paio di settimane fa, ha promesso che entro la fine dell'anno la legge l'abbiamo. Ecco, e noi stiamo preparando, praticamente già pronto, un glossario proprio con i termini, i vari termini, e cosa vogliono dire e che implicazioni hanno. E noi saremo pronti qui a farvi da cassa di risonanza, dottor Turba. Allora, devo chiudere con le assicurazioni, non so quanto tempo ho, vorrei sapere da Carmela che ora devo chiudere questo blocco. Intanto, una mail che ci è arrivata carina, Nicoletta, su WhatsApp di questo ascoltatore. Due bambine piccole, 5 e 2 anni, così ci scrive Giorgio da Padova. Fin da quando la più grande è iniziata ad andare al nido, ha fatto la polizza del capofamiglia con massimale di 1 milione di euro, perché voleva dormire tranquillo. E quando la piccola ha cominciato anche a lei a frequentare il nido, ha elevato il massimale a 2 milioni di euro, il tutto per soli 64 euro, a cui si aggiunge anche la tutela legale fino a 10.000 euro di massimale. Benissimo. Quindi una scelta di cui Giorgio è molto soddisfatto e che vuole condividere con noi. Ci aggiungono, riesco a farla intervenire in diretta, Maria Rosa D'Aleco, che ha l'assicurazione sulla casa, ospita spesso in casa degli studenti. Lei dice, è bene che faccia anche un'assicurazione sulla sicurezza civile di terzi? Agugliari, un minuto per concludere su questi due casi, grazie. Due casi di ascoltatori molto, molto attenti all'osservazione del rischio. Sicuramente quando c'è a che fare, quando ci si mette in relazione con terzi, è sempre bene prevedere che un rapporto di qualsiasi tipo, anche accidentale, appunto un piccolo incontro accidentale, può creare dei grandissimi danni a terzi, e quindi un'assicurazione, una copertura che metta a riparo il mio patrimonio da eventuali richieste di terzi è opportuna, specie quando si tratta di bambini, quando si tratta di persone anziane. I dati ultimi dell'Istituto Superiore della Sanità mi parla di il 23% di tutti i ricoveri per trauma, per trauma, quindi la seconda causa di morte in età pediatrica, per ciò che concerne gli incidenti domestici. Teniamo di conto che assolutamente sono cifre di cui teniamo conto. Guardi, lei è proprio un altro uomo di cuore e denari, sì. Professor Agugliari, insieme a Luciano Turba, per cui torneremo ad invitarvi. A presto. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Vi ha presentato Cuore e Denari.